La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, 16:30 primi 17 secondi in diretta qui da Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta o in podcast. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, per rendervi disponibili, oltre che per tutto il resto, alla serie di trasmissioni domani, altra puntata su Via dall'Italia, oppure Resto in Italia, anche sapendo che fuori si va meglio. Siate giovani o meno giovani, ci interessa la vostra opinione ed esperienza diretta di vita, come già abbiamo fatto in alcune puntate, dandovi la possibilità dopo che avevate scritto. Di cosa parliamo oggi? Se volete intervenire 800 24 00 24, è una trasmissione dedicata alla Francia dopo l'intervento di Le Pen. E in 24 ore la campagna per le presidenziali che si approssimano in Francia si è molto animata. Adesso tra l'altro alle 4 dovrebbe essere prevista una conferenza stampa di François Fillon, il candidato dell'UMP, che ha perso un mucchio di punti per via dei soldi, che un milione di euro che è uscito negli anni ha incassato facendo figurare la moglie come collaboratrice, cosa che non era vera. Ma detto questo, vedremo se è l'annuncio del suo ritiro oppure se va al contrattacco. Sta di fatto che in tutti i sondaggi oramai Le Pen in testa per il primo turno, e al ballottaggio ci va Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, un candidato senza partito, che dice che la tradizionale destra francese e la tradizionale sinistra socialista sono vecchie e superate. Sabato ha parlato lui con, di fronte a 8.000 persone e 8.000 fuori a Lione, rilanciando con toni molto alti la sua sfida all'intero sistema politico, con un tono moderato, europeista. E la risposta è venuta ieri con l'intervento di Marine Le Pen. Marine Le Pen è addirittura più dura di quanto molti si aspettassero, e la mia domanda è: pensate che sia giusto, sarebbe meglio per noi, per l'Europa, per tutti? Il suo programma in pochissime parole è: referendum per uscire dall'Unione Europea, basta l'euro, si torna al franco, basta NATO, tasse sui lavoratori stranieri, tasse su chi detiene soldi all'estero. Ecco, io mi fermo a questi 5 punti che sono in quanto tali rivoluzionari, nel senso che stiamo parlando della Francia, socio fondatore insieme alla Germania e a noi, ma insomma con un rapporto preferenziale con la Germania. È evidente che questo farebbe saltare per aria ogni intenzione, ha parlato anche la Merkel sabato, di un'Europa a due velocità, venerdì ne aveva parlato, sarebbe la parola fine per tutta la complessa, inefficiente, inefficace architettura comunitaria e dell'euroarea, in nome di un ritorno alle nazioni, alla sovranità nazionale. Chi è più forte cura i propri rapporti nel mondo, gli altri si arrangino, in parole povere. Allora, per capirci abbiamo un ospite che vi presento subito. Intanto abbiamo montato 20 secondi di Marine Le Pen e 20 secondi di Emmanuel Macron questo fine settimana a Lione. Cominciamo, sono attaccati, naturalmente, come capirete subito, si comincia con la Le Pen. Se l'Unione Europea ne se soumet pas, alors je demanderai aux Français de voter au référendum pour se démettre de ce cauchemar et redevenir libre. Notre combat pour la fraternité, enfin, ce sera notre combat pour l'Europe. Certains voudraient nous en faire sortir. Liberté, égalité, fraternité, ce sont des combats contemporains. Ce seront nos combats pour la France. Ce seront nos combats per l'Europa. Come avete sentito, boati all'annuncio del referendum per uscire dall'Unione Europea da parte della Le Pen, forte insistenza invece sul legame che viene dalla sacra triade repubblicana, rivoluzionaria francese, con l'impegno per difendere l'Europa. Sì, certo, Europa diversa, eccetera, ma insomma, senza far andare per aria l'Unione Europea e l'euroarea. Intanto, tutto questo cresce anche lo spread della Francia, perché i mercati iniziano a apprezzare questa voglia di tornare al rischio sovrano. Allora, per capire meglio, io prima di presentarvi un ospite vi ricordo anche questo: appassioniamoci quanto vogliamo ai programmi di Le Pen e a quelli di Macron, ma ricordiamoci che l'evento, se questi sono i due personaggi che vanno al ballottaggio, è comunque eversivo rispetto alla storia francese. cioè rispetto alla continuità della storia francese, perché non dimenticatevi che in Francia c'è un sistema presidenziale, il presidente della Repubblica eletto direttamente dai cittadini ha un potere particolare sulla politica estera e di difesa, ma poi governa un presidente del Consiglio, è un governo il cui presidente del Consiglio è scelto dal presidente della Repubblica, ma il governo deve avere la fiducia della Camera, la fiducia parlamentare. Allora, se andate a vedere oggi, nel Parlamento di oggi, eletto nel 2012, il prossimo Parlamento, la Camera si vota a metà giugno, doppio turno in Francia, maggioritario, al secondo turno vanno i candidati che hanno superato il 12,5% dei voti al primo, ma se andate a vedere la Camera dei Deputati attuale in Francia, la gara per le presidenziali rischia di essere attualmente tra Marine Le Pen, che ha su 577 deputati francesi ne ha due oggi alla Camera, due, perché col sistema maggioritario a doppio turno sono stati solo due nel 2012 i deputati del Fronte Nazionale eletti, mentre Macron non ne ha nessuno perché ovviamente è fuori dai partiti, si è dimesso dal governo a guida socialista, è critico verso l'UMP e i socialisti e non ne ha nessuno. Questo significa che qualunque scelta faranno i francesi, se i due candidati al ballottaggio sono Le Pen e Macron, bisognerebbe immaginare una rivoluzione poi nel voto ai partiti a giugno, perché altrimenti un governo che sia coerente, se vincerà Le Pen, un governo di Fronte Nazionale, appare improbabile. Quello poi di un nuovo partito che si presenta per la prima volta alle elezioni e riuscisse ad avere la maggioranza alla Camera, ancora, o almeno altrettanto, improbabile. Bel punto interrogativo sulla governabilità francese. Se ci mettiamo che noi in Italia abbiamo le due leggi proporzionali pure, Camera e Senato, mi pare che ci stiamo avviando a fare una serie di repliche della situazione spagnola in tutta Europa. Il rischio c'è, a meno che non avvengano rivoluzioni vere nella struttura partitica della Francia, in cui la destra è stata evoluzione gollista nei decenni, fino a Sarkozy e fino al candidato attuale Fillon, che non si sa se si ritira, ma comunque Alain Juppé ha già detto che lui non raccoglie i cocci di Fillon, perché abbiamo di fronte un outsider vero, cioè Macron, e il capo di un'evoluzione della destra petanista, nazionalista, eccetera eccetera, che ha molto cambiato il segno del Fronte Nazionale, questo è vero, rispetto alle posizioni razziste del padre, ma che pur tuttavia alle politiche si scontra con una legge elettorale che non ne ha mai consentito se non una rappresentanza del tutto di diritto di tribuna. Allora, per farci capire meglio, un testimone oculare e un giornalista che è lì appunto, si è fatto tutti e due gli eventi di Lione, e che pubblica una newsletter settimanale dedicata alle elezioni presidenziali francesi in arrivo. È un giornalista, vive a Parigi, scrive tra gli altri sulla testata online gli stati generali.com, si chiama Francesco Maselli, grazie di essere con noi. Ciao Oscar, grazie, ciao. Allora, innanzitutto, qualunque cosa abbia detto fino a questo momento e non ti trovi d'accordo, meglio sentire la tua opinione, visto che sei un osservatore diretto. No, io penso che tu abbia fatto un riassunto piuttosto efficace della situazione. Ci sono stati questi due comizi agli antipodi, è stato molto interessante vederli. Da un lato Macron, c'è una coreografia pensata per risaltare l'Europa, bandiere dell'Unione ovunque, pannelli col campo blu e le stelle. Lui parlava su un podio che si illuminava con la bandiera dell'Europa ogni volta che veniva citata, insomma, e il suo discorso era molto incentrato sul posto della Francia nel mondo e nell'Europa, quindi come nuovo paese che dovrà prendere le redini degli Stati Uniti che si sono ritirati o si vorranno ritirare, poi si vedrà, dal mondo, e la Francia dovrà tornare ad essere l'esempio per tutti. E dall'altra parte invece Marine Le Pen, dove non c'era chiaramente nemmeno la bandiera dell'Unione Europea, ma che ogni volta che lei citava l'Unione, che è una gabbia, che calpesta i nostri diritti, che è governata da tecnocrati non eletti da nessuno, che fanno i propri interessi in nome di questo mondialismo, come lo chiama, che non ha un cuore, non ha delle radici, il pubblico si alzava in piedi e gridava siamo a casa nostra, siamo a casa nostra. Quindi insomma ci sono stati questi due spaccati, con una Francia che ha vinto la sfida della globalizzazione e vuole continuare a competere, quella di Emmanuel Macron, e invece la Francia che l'ha persa e chiede allo Stato di essere protetta. Tra le altre cose, Marine Le Pen ha anche annunciato, in coerenza al fatto che lei propone di tornare al franco e poi si vedrà se tornare anche all'eco, cioè una serie di rapporti di cambio definiti tra le diverse banche centrali, perché si romperebbe il sistema europeo delle banche centrali, tornerebbe sì. La Banca di Francia, si contratterebbe, se questa fosse la valutazione anche degli altri paesi dell'euroarea, dei tassi di oscillazione dei cambi tra le monete, come funzionava ai tempi dell'ECU, ma in ogni caso lei ha detto la Banca di Francia tornerebbe a prendere ordini dal governo e dal ministro del tesoro sui tassi di interesse e sulla monetizzazione del debito, quindi via anche l'indipendenza delle banche centrali, è anche uno slogan caro ai sovranisti sì. italiani, e via anche al fatto che abbiamo imparato nella storia che le banche centrali che prendono ordine al tesoro in realtà sono, a quel punto finiscono per dover stampare, perché si finisce per fare deficit e debito in quantità. Evidentemente questo ritorno al rischio sovrano esclusivamente nazionale, un conto è che lo facciano paesi come Francia, altri paesi come l'Italia con più bassi tassi di crescita e debito al 133% del PIL. Però detto questo, la domanda che faccio io è: ma nessuno dei due ha parlato, ma che governo poi nascerebbe? No, diciamo questo è stato un passaggio molto interessante del discorso di Marine Le Pen, che a un certo punto ha parlato di governo di unione nazionale, che è una proposta piuttosto vaga, non si è capito bene lei che cosa intenda per questo, però sicuramente il Front National sta cercando di allargare la propria base un po' elettorale, un po' di consenso nella società e nei quadri dirigenti, per cercare di insomma allargare la propria possibile squadra di governo, che era un po' il primo disegno di chi sdoganò e fu il primo consigliere in questa azione contro l'eredità del padre, il Fronte Nazionale, aprendolo insomma agli enarchi eccetera eccetera, Bruno Maigret, che però poi ruppe Bruno Maigret che poi ruppe nel 2008 sì. con Le Pen, ma in tutto sommato è la stessa linea seguita appunto da Filippo, che ne ha raccolto l'eredità come consigliere, sì, esatto, no? Cioè lui è un personaggio chiave, noi non lo conosciamo in Italia Florian Philippot, ma Florian Philippot è uno che ha fatto l'ENA, lavorava al Ministero degli Interni, insomma è un quadro dell'amministrazione pubblica francese tradizionale, che ha aiutato Marine a avere un discorso un po' più conciliante. Però di conciliante ieri c'era poco, io sono rimasto colpito, me lo aspettavo conciliante, esatto. Era di una durezza assoluta. Sì. Diciamo, io lo dividerei in due parti il discorso di ieri. Nella prima parte era molto duro, è vero, contro l'Europa, contro gli immigrati, eccetera. Però la seconda parte del discorso era invece nazional popolare. A me ha ricordato, in alcuni tratti, il Sarkozy del 2012 che si buttò a destra a un certo punto per provare a recuperare nei confronti della esatto. sinistra. Quindi nazional popolare intendi la Francia profonda che ha perso il posto esatto, di lavoro, cioè esatto. tutto il nord, in cui poi alla fine le regionali avevano preso una barca di voti, al secondo turno non vinsero da nessuna parte, ma il nord operaio era diventato il fronte nazionale. Esattamente, il nord operaio, anche il sud della Provenza, insomma, dove la nipote ha fatto il risultato migliore alle ultime regionali, è arrivata al 45% al secondo turno, ha perso, ma il risultato è di tutto rispetto, per cui questa domanda che le verrà posta nelle prossime settimane: ma con chi governi alla fine? Lei proverà a dire la nuova divisione è patrioti contro mondialisti. Ho capito, però questo immagina, allora, saranno in crisi i socialisti, e lo sono, sarà in crisi l'UMP, lo è, basta vedere Fillon, tra l'altro le agenzie battono nel frattempo le prime dichiarazioni di François Fillon, che aveva la conferenza stampa alle 4 e ha detto testualmente: è stato un errore, me ne rammarico profondamente, rivolgo le mie scuse ai francesi, lo ha detto la conferenza stampa iniziando il candidato della destra travolta dal Penelope Gate, François Fillon, vi teniamo poi informati se esce la conferma che si ritira oppure no, perché dalle prime dichiarazioni ancora non si capisce. Sì, dalle prime dichiarazioni sembrava di no, io lo stavo ascoltando, mi sembrava di no, però poi insomma vedremo. Invece sì, dicevamo Ma Macron è ancora, voglio dire, almeno la Le Pen può provare, mi sembra molto improbabile immaginare un risultato elettorale in cui spariscono UMP e i socialisti, oppure il Fronte Nazionale becca chissà quanti eletti, però difficile, ma lei no, ha uno slogan. Quello, cioè, il punto è proprio quello, va bene la presidenziale perché si vota per una persona, quindi certo è molto molto difficile che lei vinca ancora adesso, poi mancano sì, ma, mesi, Macron, ma la stessa cosa vale per Macron, ma Macron è uno che dice la vecchia destra e la vecchia sinistra entrambe non hanno la ricetta per governare la Francia, e poi il governo con chi lo fa? È la stessa domanda, infatti sono molto simili, cioè entrambi sì, inseriscono in questo spazio che è la sfiducia dei francesi nei confronti della classe dirigente tradizionale, e quindi per adesso volano nei sondaggi. Bisogna capire se poi, quando verranno poste delle domande più concrete, come governi, con chi governi. Ormai i francesi sono abituati, è la nona volta che vanno a votare le presidenziali, quindi hanno contezza del fatto che il presidente non fa tutto, ha bisogno di un governo, ha bisogno di un primo ministro, ha bisogno di una maggioranza parlamentare solida. Hanno fatto una riforma costituzionale per consentire che il governo avesse una maggioranza parlamentare che gli consentisse poi di passare le leggi, per cui hanno ridotto la durata del mandato del presidente. Sì, durano entrambi 5 anni, il mandato, esatto, presidenziale, quello legislativo. All'inizio durava 7 anni il presidente della Repubblica eletto e 5 anni il Parlamento. Di fronte alle coabitazioni di segno opposto tra gollisti e socialisti, più volte capitate a presidenti di entrambi i segni politici, hanno detto vabbè, facciamo 5 anni e 5 anni. Esatto. Ma resta il fatto che di volta in volta la coabitazione era tra leader di uno dei due maggiori partiti, mentre qua ci sono in ballo due che sì, una prende tanti voti ma pochissimi eletti, e l'altra addirittura all'esordio. Però, ma fammi fare una domanda, ma questa durezza anti-Unione Europea e anti-Euro ha anche attaccato duramente e frontalmente, chiamandola per nome, la Merkel e la Germania, oppure no, la Le Pen? Non ha attaccato la Germania direttamente, però insomma ha fatto capire che ci sono dei paesi che approfittano di come è strutturata l'Unione Europea, mentre altri lo soffrono. Su questo Macron, che ha citato la Merkel e la Germania, oppure mai? L'ha citata, tra l'altro lui è andato in Germania e ha elogiato la politica della Merkel sull'accoglienza degli immigrati. Sull'accoglienza, quindi, cosa insomma, che non so quanti voti gli porti in Francia. Tra l'altro, inciso, speriamo che non ci sia nessun attentato, perché se c'è un attentato sono vagonate di voti. In realtà c'è stato. Sì, però voglio dire, un attentato con vittime, certo, ecco, quello del Louvre per fortuna è stato contenuto dai militari. Questa cosa dell'attentato che sottolinei giustamente, ecco, Macron, immaginiamo che ci sia un grande attentato, lui sulle questioni di sicurezza è piuttosto debole. Appunto. Non dice granché. Aspetta, abbiamo un minuto di traffico e poi torniamo con Francesco Moselli. La versione di Oscar. Nel frattempo c'è una sessione al Parlamento europeo di Mario Draghi, e vi dico solo che ha una domanda sulle svalutazioni competitive, Trump cambia tutto, era un eurodeputato 5 Stelle Marco Zanni a chiederglielo. La risposta di Draghi è questa: ci siamo di nuovo, le svalutazioni competitive, leggo testualmente, ma per favore, abbiamo già visto quello che è successo negli anni 70 e 80, che non furono certamente anni di stabilità ma di continua svalutazione competitiva. Il mercato unico europeo non sopravviverà davanti a svalutazioni competitive. Come vedete, anche Draghi parla chiaro, insomma siamo a una fase in cui comunque all'ordine del giorno c'è: è finita questa lunga storia pluridecennale, l'Unione Europea di fronte ai suoi fallimenti non aveva un'architettura capace di decisioni in tempo reale, quelle dei tempi dei mercati, è finito l'euro, qualunque siano le ragioni, buone o meno, ma insomma gli elettorati non ne possono più, si rendono conto dei rischi di cosa vuol dire buttare tutto per l'aria in un mondo in cui il dialogo torna a essere solo tra grandi potenze, ma mi si potrà dire, rischi o meno, meglio fare punto e a capo, certo, poi conteremo le vittime, è sempre così, la storia dei grandi cambiamenti non avviene gratis, come è noto. Dicevi, Francesco, che è andato in Germania Macron e ha detto appoggio, 1, 2. Poi hai detto sulla sicurezza e sull'immigrazione, diciamo, non ha posizioni molto forti. Qual è allora la forza che negli attuali sondaggi lo sembra porre addirittura con 20-30 punti di vantaggio in un ipotetico secondo turno di fronte alle Le Pen? Non sono un po' sopravvalutati questi voti? Guarda, io credo che in questo momento i sondaggi sul ballottaggio tengono conto di un fronte repubblicano contro Marine Le Pen. Cioè, utilizzano Macron come se fosse un socialista. Ho capito, ma non è un socialista. Socialisti che hanno scelto alle primarie Benoamo, come cavolo fanno ad andare a votare per lui? Infatti la questione che io mi sto ponendo è: se vanno Marine Le Pen e Emmanuel Macron al ballottaggio, vuol dire che il sistema politico è totalmente saltato. Per cui riprodurre uno schema che poteva valere quando il sistema politico funzionava E quindi anche i sondaggi probabilmente sono tutti appesi a delle varie, perché voglio dire, sì, sono fatti su, in base a campionature che tengono conto delle serie storiche delle il campione è fatto per pesando le preferenze storiche, sia pure variate nel tempo, ma è un campione che a quel punto non ha base ragionevole per poter esprimere davvero un'indicazione. Ecco, no, questo per spiegare a chi ci ascolta che se arriva poi la grande sorpresa, c'è una ragione nelle serie storiche statistiche, come è avvenuto quando avvengono questi grandi eventi di rottura. I sondaggi si fanno su campionature che tengono conto del passato, più sono stabilizzati i vecchi sistemi politici con vecchi partiti, meno sono affidabili come campione. Quindi questo è il punto, non lo sappiamo, questa è la verità. Può vincere benissimo la Le Pen, e al di là di quello che accade di qua ad allora, Macron senza partito, se vince una rivoluzione, secondo me maggiore che se vince la Le Pen. Questo, la Le Pen, sì, è un pezzo di storia francese, sia pure evolutasi, e Macron è un alieno rispetto alla politica. Tra l'altro, Marine Le Pen negli ultimi anni ha strutturato un movimento sul territorio che prima non esisteva. Io ho avuto delle conversazioni molto interessanti ieri con gli eletti locali del Front Nazionale, e mi spiegavano che appunto, mentre con Jean-Marie Le Pen, il padre, che è il leader storico insomma del Front National, si aveva ancora questa idea che fossero dei mostri, i frontisti. Ecco, sì, i petanisti razzisti, esatto, anti-ebraici, esatto, eccetera. Adesso invece, soprattutto nei paesini piccoli, dove magari un eletto locale del Front National fa quello che deve fare, risolve i problemi agli altri, il suo vicino di casa, ha un lavoro, in questo caso è molto più facile fare campagna elettorale ed è molto più facile convincere quelli che anche quelli di Macron è tutta gente che dovrà prima presentarsi in qualunque posto, esatto, facendo moltissimi appelli per avere qualcuno che si presenti. Oh mamma mia, Fiona ha appena detto che niente gli farà cambiare idea, sono e resto candidato alle elezioni presidenziali e resto candidato per vincere. Ma ecco, Io penso che in questo ci sia, tra l'altro, il fatto che non hanno un piano B, non è previsto. No, ma il suo partito lo tiene lì pur sapendo che le sue possibilità diminuiscono verticalmente, perché poi ci sono le legislative, altrimenti come fa l'UMP? Esatto, e sai, quando tu non hai un piano B, che cosa fai? Andy Di Giuppé, che è quello che è arrivato secondo alle primarie, che ha detto io non vado. No, lui non va, infatti. Candidi Sarkozy a questo punto, che è stato rigettato. Esatto, e quindi che fai? È un problema. Allora a questo punto lo tengono in sella e sperano che quantomeno nell'elettorato repubblicano tenga. Io penso che sia questo il ragionamento. No, anche perché nella testa, secondo me, dell'UMP, quando anche ci fosse la variabile Macron, poi alla fine, se c'è un risultato difendibile elettorale, il governo si fa più sull'UMP che sui socialisti. Io di questo sono ragionevolmente convinto, sentendo parlare Macron. Magari mi sbaglio, ma il Partito Socialista, che riguarda a sinistra, che pensa alle 32 ore, insomma, le cose su cui ha vinto Benoît Hamon, e a parte che c'è una parte poi del Partito Socialista ancora molto più a sinistra di quella di Hamon, la vedo difficile che dialogo con chi difende il rigore tedesco. Poi sai, le elezioni legislative sono a collegio, è diverso votare per un parlamentare nel tuo collegio rispetto a delle elezioni nazionali, entrano in gioco delle variabili completamente diverse, come adesso fanno i sondaggi in Italia sulla proporzionale. Ohimè, questo è il motivo per cui mi è sempre piaciuto quel sistema elettorale, come mi piace anche il nominale secco, ma insomma, uno dei due, quelli che hanno funzionato nel mondo. Io sono d'accordo. Però sono in Italia niente, noi ci facciamo gli azzeccagarbugli, facciamo le leggi elettorali a cazzo, che poi facciamo ogni volta riscrivere dalla Corte Costituzionale, perché noi siamo dei geni, il modello nazionale. Si vede. Però detto questo, in Francia l'esplosione del sistema tradizionale esprime, secondo me, questa crisi che oramai è conclamata. È inutile illudersi. No, secondo me è irragionevole pensare che l'uscita da questa crisi europea avvenga attraverso la ragionevolezza. Troppi elementi sono sfuggiti di mano, troppi ritardi, troppe contraddizioni. Qualcuno di questi eventi sfuggirà di mano e a quel punto scatenerà conseguenze molto pesanti. Quando si decise l'inconvertibilità del dollaro nel 1974, che era un evento che andava, quella decisione andava presa da anni, ci si trovò per anni di fronte a una serie di conseguenze a catene sui mercati che all'epoca non erano globalizzati, gravissimi, che erano conseguenza di una decisione le cui conseguenze in realtà si rivelarono non ragionevolmente affrontate per tempo. Figuriamoci quando entrano in ballo i nazionalismi. Domanda secca, ma i tedeschi secondo te preferirebbero Macron? Bella domanda. Secondo me preferivano Fillon. Ah, ecco, appunto, anche secondo me. Perché... Però, certo, tra Marine Le Pen e Macron non c'è dubbio, voglio dire, preferiscono Macron, su queste preferiscono un candidato che comunque mantenga l'impianto visto europeo. Da un'altra parte, se si crea l'evento discontinuità, perché questo sarebbe una vittoria di Le Pen, sia pur poi con un governo potuto da inventarsi, per i tedeschi diventa più facile dire va bene, allora facciamoci il nostro girone ristretto e perseguiamo i nostri interessi con chi ci sta, cioè che è un pezzo del discorso che la Merkel ha iniziato a fare prendendo atto che l'Ever Close Union è finita dal punto di vista dell'Unione Europea, cioè l'Europa a due velocità, e quindi Europa a due velocità, a quel punto Paesi Bassi, Finlandia e Austria con la Germania, gli altri fate quello che volete e auguri cari amici, sì, rimane Unione Europea depotenziata e poi chi vuole uscire dall'euro faccia e auguri, insomma un po' questa prospettiva esiste, è inutile negarlo. Io ringrazio Francesco Maselli, continuerò a leggerti e cari ascoltatori, appuntamento con me Alessandro Bina domani alle 8:20, attenti alle 2.